Ciao, sono Mattia. Sono Davide Bais. E benvenuti a Girolamo. Geronimo. Geronimo. Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia, delle zanzare e del mare, benvenuti a una nuova puntata di Gironimo, il podcast di Al Vento, Italian Cycling Magazine, realizzato con il contributo eccezionale di Shimano e le voci di Bidon. Io sono Filippo Cautz, di fianco a me, anzi di fronte, è difficile dire la geometria, però insomma, vicino a me c'è Leonardo Piccione. Buon pomeriggio, buonasera o buongiorno a tutti. E Michele Pelacci, sempre lui, immancabile. Botalume. Botalume così. Caso, sì. Oggi. Sì. Oggi botalume per Michele Pelacci. Dove siamo? Siamo nel parcheggio del Pala Expo Mar di Caorle, perché oggi ci siamo messi sul culo, è il termine tecnico del furgone, come si può dire quando lo apri dietro? Baule? Baule, può essere. Bagagli, portabagagli. Vabbè, dietro il furgone abbiamo aperto il portellone, ci siamo appoggiati. Michele Pelacci ha appena fatto una foto, la metterà sui social perché è giovane e non fa altro che stare sui social. Siamo nel parcheggio del Pala Expo Mar di Caorle. Caorle, che è detta la Little Venice, ho letto su delle pubblicità qua intorno. E via Venezia è vicina, perché a Lidl nel senso di vicino. No. Ma Lidl come Lidl Segafredo, Lidl Trek, scusami, la nuova squadra che nascerà dopo. Non so, o come Lidl il supermercato dove vado a fare la spesa ogni settimana. Pala Expo Mar è un impianto polifunzionale in grado di ospitare manifestazioni fieristiche grandi, medie e piccole, congressualità, presentazioni di prodotti, esposizioni varie, spettacoli musicali e balli, meeting sportivi e raduni, sfilate di mode, eccetera. Tutto tranne un buon gelato, perché c'era il gelato, però lo sono perso. Io sono andato a mangiarlo qui in un'altra gelateria e ho trovato purtroppo dentro il gelato al pistacchio un pezzo di pistacchio vero, però non croccante. Buono. E non croccante. Quando non è croccante, pistacchio vero non deve essere pochino, tostato sì. Per croccare. Non era tostato, quindi voto 7 meno. Voto 7 meno, voto 4 per quanto mi riguarda alla Little Venice e al Pala Expo Mar, semplicemente perché di fronte a noi c'è l'acqua park ed è chiuso. Cioè, potevamo, anziché stare qua a registrare il podcast, essere lì in costume da bagno sugli scivoli a fare l'acqua park. Sarebbe stato molto bello. Tra l'altro, anche un corridore importante per la tappa di oggi avrebbe voluto fare un bagno. Ne parleremo. Ne parleremo. Importante. Il subito, vincitore subito della tappa di oggi. Il vincitore quasi infante del paese. Sì, padovano di Abano Terme. Beh, così sì. Ci ha detto lui ieri. Cioè, per una volta abbiamo fatto credo sia la prima volta che vince la tappa colui che fa queste specie di ricognizioni di tappa. È vero, che noi credo cerchiamo che sia di la fare. Prima volta che succede, lui veniva in vacanza. Per cui non possiamo dire che portiamo bene perché succede la prima volta, però oggi abbiamo portato bene. Sì, Alberto Dainese, che appunto veniva qui da bambino in vacanza, qui tra Caorle e Jesolo soprattutto, e ha detto che ci aveva detto ieri si sarebbe fatto un bagno oggi, poi in conferenza stampa ha detto che saranno con la squadra in hotel a Treviso, quindi a Treviso non c'è il mare che io sappia, forse si farà un bagno in piscina. Ci sono dei canali, Treviso dove ha vinto De Bont l'anno scorso? Sì. Ok, c'erano dei canali, c'era anche uno che pescava. Ah, ci sono i canali, però magari il bagno, ha detto lui, in piscina. Se c'è la piscina nell'hotel della squadra non lo sappiamo, lo scopriremo forse nelle prossime ore. Io ho visto qualcuno che pescava oggi nel fiume Sarca stamattina, ma questo non è importante. È più importante forse arrivare a un riassuntino di tappa. Sì, cosa bravo, ti sei lanciato da solo, quindi prego. Perché a fine dei primi chilometri se ne vanno in quattro: Sevilla, Leysen, Champion e Quarterman. No. Champion? Non lo so come si dice questo. Thomas Champion. Cioè, eri quasi a Champignon. L'abbiamo anche avuto ospite nella nostra trasmissione. Vabbè. La fuga non prende mai grande vantaggio, tant'è che la volata a Caorle non è mai stata messa in dubbio. Ai meno 5 viene ripreso pure Leysen, quindi a sprint. Uno sprint abbastanza confusionario, ne parleremo, nel quale al fotofinish, davanti a Milan e Matthews, vince Alberto Dainese. Sì, sei stato velocissimo e quindi non mi resta che leggere l'ordine d'arrivo prima di poi analizzare un attimo la volata, perché appunto Alberto Dainese ha preceduto Jonathan Milan e Michael Matthews terzo, quarto è arrivato Nicolò Bonifazio, che è spuntato Like a Rocket, come diceva ieri Almeida in riferimento a Thomas. Quinto con Sonny, sesto Gaviria, che è colui che ha fatto tirare forse di più in assoluto la squadra durante la tappa. La Movistar e la Bahrain oggi sono state protagoniste in testa al gruppo per chiudere sulla fuga, che giustamente, come hai detto, non ha mai avuto grosse speranze di arrivare. Settimo, appunto, il velocista della Bahrain, l'altro velocista della Bahrain, Andrea Pasqualon, che è l'ultimo uomo di Milan, in qualche modo, anche se poi non l'abbiamo visto in realtà tirare la volata. Ottavo, Alex Kirsch della Trek. Nono, Stefano Aldani. E a chiudere la top 10, Pascal Ackermann. Fatemi citare il dodicesimo dell'ordine d'arrivo, che è Arne Marit della Intermarché, che era in lacrime dopo la linea d'arrivo perché gli è saltata la catena nel momento in cui ha lanciato lo sprint. E lui ha detto: ho resistito 2 settimane col brutto tempo, le salite e tutto quanto per arrivare alla volata di oggi. Nel momento in cui ho lanciato lo sprint si è rotta la catena. E quindi succede anche questo. Succede anche questo, succedono cose varie, soprattutto nei metri subito dopo l'arrivo della tappa. Questa è una cosa che abbiamo imparato in questo Giro d'Italia, l'abbiamo imparata anche nei Giro d'Italia precedenti, ma continuiamo. Ogni giorno ne impariamo una nuova, oggi ne abbiamo imparate tante, tra l'altro. Succede che è il momento in cui noi andiamo a rubare gli audio. È una rubrica ormai forte di questo podcast. E vi faccio sentire un brevissimo contributo di quello che è successo tra Dainese e l'entourage della DSM subito dopo l'arrivo. Milan, bravo! Bravo! Allora, l'urlo iniziale era chiaramente l'urlo di Dainese. Il tizio che urlava "Bravo Milan" chiaramente si rivolgeva a Dainese, convinto che fosse Milan che avesse vinto la tappa. La cosa interessante è che Dainese, esultando, ha smollato lì la sua bicicletta e la preoccupazione dello staff della Trek era dove diavolo fosse finita la bicicletta di Alberto Dainese, che giustamente poteva concentrarsi su altro in quel momento. Sì, soprattutto per come è arrivata questa vittoria. Intanto al photo finish lui ha detto: non ho mai vinto per così poco in vita mia, ho soltanto perso di poco una volta quando ero ragazzo, da giovane. E soprattutto dopo quello che gli è successo, che ha passato domenica scorsa verso Bergamo, ha avuto tutta una serie di problemi fisici, intestinali se non ho capito male, era sul punto. Sì, ricordiamo che la DSM prima si chiamava Sunweb ed era la squadra di Dumoulin. Quindi diciamo è una categoria di problemi che riguardano spesso questa squadra. E no, non c'è nessuna correlazione evidentemente, però Alberto Dainese ha superato la difficoltà di domenica, è rimasto in gara e oggi ha vinto forse una delle poche occasioni che la sua squadra quest'anno gli ha concesso da primo velocista, perché altrimenti gli viene affidato il ruolo in questo giro spesso di ultimo, se non penultimo uomo, ha detto lui. Ho molte cose su Dainese, vado un po' in ordine sparso come sempre. Prima di... posso interromperti? Certo. Qualcosa sulla volata, su come ha vinto, perché abbiamo detto il photo finish, però come si è sviluppata la volata? Lui è stato uno dei pochi che ha avuto un ultimo uomo in questo Giro d'Italia, che l'ha tirato in modo, come dire... discutibile. Discutibile. Però c'era Niklas Mark. C'era, lo ha portato, lo ha protetto molto bene portandolo a quell'ultima curva che era il punto chiave di quella volata. Però mancava un uomo al treno della DSM, nel senso che la DSM si è mossa bene fino a quell'ultima curva. Il problema è che dopo quella curva, più o meno ai 500, Dainese era da solo. A salvare Dainese, a diciamo decidere la vittoria, è stato il treno della Jayco, che invece si è mosso molto molto bene. Ha lanciato la volata Matthews più o meno con le tempistiche giuste, perché Matthews è un corridore da volata lunga, per cui ci stava che la lanciassero lunga. Il problema è che lanciandola così lunga, Matthews di fatto è diventato l'ultimo uomo per Dainese e anche per Bonifazio, che è stato molto bravo a stare sempre sulle ruote giuste. La volata di Bonifazio. Ma Bonifazio è un velocista che è ultra discontinuo. Il 99% non gli riescono bene, ma quando gli riescono è un velocista eccezionale. E oggi era una di quelle giornate, poi ne riparleremo di Bonifazio. Chi manca, come sempre, è Jonathan Milan. Dovremo parlare di treni di ultimi uomini in questa puntata, ne abbiamo già parlato in questo podcast. Milan... Sì, non manca Milan, è mancato un aiuto a Jonathan Milan, perché lui alla fine è mancato un aiuto, però se sai che la situazione è questa, a questo punto state farti trovare più avanti. Jonathan Milan ancora una volta è partito lontanissimo, gli è mancato sicuramente un compagno di squadra che lo non tanto che lo lanciasse, perché abbiamo capito che questa sparata, come era like a rocket, ce l'ha, però che lo pilotasse. Forse questo manca in questo momento a Jonathan Milan, qualcuno che in quei momenti convulsi lo tenga avanti. E quindi lui è finito indietro ancora una volta. È stato anche Poisson Pilot. Poisson Pilot, sì. È stato anche sfortunato, va detto Milan, perché abbiamo citato Marit prima. E Milan, se riguardate la volata, viene penalizzato in qualche modo dal fatto che quando salta la catena Marit c'è uno sbandamento. E in quel momento lo sbandamento butta un po' fuori traiettoria Milan. Forse se avesse anche solo quel piccolo particolare, visto quanto è stato vicino poi l'arrivo, forse già solo questo gli avrebbe permesso di. Così, di vincere. Di questo stiamo parlando. Se fosse anche oggi era più forte, no? Milan, se l'arrivo era tre metri dopo, forse avrebbe vinto. Non lo so, allora, cioè, è sempre adesso, è un giro con talmente poche volate così che è difficile dire sempre. Però ci siamo abituati a un Milan che è sempre probabilmente il più veloce sul rettilineo finale, però le volate non sono fatte solo di punta di velocità. L'arrivo da Inese-Milan è stato uno scontro tra velocisti molto diversi, secondo me. Dainese in conferenza stampa ha citato il fatto che uno si sente uno dei più potenti in gruppo, no? Cosa che invece evidentemente è Milan. Milan anche oggi, partendo da casa sua, è sembrato un po' lo stantuffo della pompa della bicicletta, no? Quando sei lì che vai su e giù, su e giù, su e giù. Però Dainese ha detto: io sono molto aerodinamico. Forse grazie anche a questo è riuscito a resistere alla rimonta di Milan, a sopravanzare Matthews di mezza ruota. E comunque Dainese ha fatto una volata enorme, no? Sì, di grande tecnica, possiamo dire. Lui è più basso di Milan, quindi anche per questo forse riesce ad avere un'aerodinamica migliore. È un velocista diverso da tanti altri anche per il carattere. È un ragazzo estremamente timido, estremamente riservato, e anche per questo la sua vittoria, secondo me, ha un valore importante. Abbiamo detto dei suoi problemi fisici, ma anche per la sua diversità, di cui lui stesso ha parlato. Ha detto: io forse sono uno che più spesso dovrebbe sbattere i pugni sul tavolo, no? Perché abbiamo detto, in questo giro gli è stato, e in questa stagione gli è stato affidato un ruolo di secondo piano a volte, e lui ha detto: me lo meritavo, perché io non ho vinto. Dalla tappa del giro dell'anno scorso non ho fatto più nulla, fondamentalmente. Molto severo con se stesso. Ha detto: avrei dovuto fare di più. Mi hanno sverniciato i miei avversari in più di un'occasione. Ha usato questo verbo molto severo con se stesso. E poi forse io dovrei... Verbo molto diffuso nell'entourage dei guidatori dell'autobus della Groupama. Sì? Per via del Rosa Gate, immagino. Posso aggiungere una cosa su Dainese? Sì, certo. Perché ha fatto una bellissima ricostruzione della volata. Gli ho fatto una domanda molto precisa su, come dire, portare anche noi ascoltatori la conferenza stampa all'interno, no, degli ultimi chilometri. E lui l'ha fatto, ha detto che in meno 2,5 ha fatto un grandissimo lavoro Marius Mayhofer sul lungomare. Se guardate la planimetria, la tappa faceva un ricciolo, diciamo, faceva il lungomare, poi tornava verso l'interno di Caorle. Insomma, ha detto: sapevo che dovevo andare a riprendere Bling, ovviamente Matthews, perché andava forte, aveva un bel treno. Ha detto, testuali parole: non ho vinto niente. Che per un velocista, lui ha detto, un velocista tra i top al mondo vince 15 volte all'anno. Lui ha vinto una volta all'anno l'anno scorso. Questa cosa gli è rimasta. Ha detto: non riesco a essere consistente. Si è ritagliato però un ruolo, no? Ha detto anche, ha parlato della difficoltà di ritagliarsi un ruolo da velocista di punta in una squadra World Tour non italiana. E sta riuscendo a farlo più o meno, con difficoltà. Più possibilità forse gli andrebbero date. Oggi ha sfruttato. Sì, lui ha detto: io voglio dimostrare di meritarmi le possibilità, e vincere è il miglior modo per dimostrare il proprio valore, come spesso succede nello sport, quantomeno, e soprattutto dimostrare, per chiudere un po' la parentesi su Alberto Dainese, che la vittoria dell'anno scorso non era stata fortuna, non era stato un caso, che era il cruccio che un po' lui ha raccontato di avere, dimostrare di non aver vinto al Giro 2022 per caso. L'ha fatto oggi a Caorle e siamo felici. Siamo felici anche di ascoltare il contributo che abbiamo registrato dopo la linea del traguardo di un altro che non era quello che avrei voluto registrare. No, non è vero, avrei voluto registrare anche i velocisti, ma in realtà io dopo l'arrivo sono scattato perché volevo parlare con Sanne Leisen, il fuggitivo di giornata, l'ultimo fuggitivo di giornata che è stato ripreso. Mi ha ricordato un po' un'azione di De Bont di un anno fa. o anche di Rex in questo Giro d'Italia. Purtroppo Sanneleisen è stato fermato perché è stato sorteggiato all'antidoping e ha avuto degli enormi ritardi urinari, diciamo, tanto che il nostro amico Renat Scotte gli ha portato una birra. A un certo punto c'è un video in cui gli passa una birra sopra le transenne per aiutarlo in questo esercizio. Ma ho una domanda su Sanneleisen, perché tu conoscerai sicuramente Sanne Kant, campionessa di ciclismo belga. Sì, sono due persone diverse. Chiaro, ma Sanne quindi è un nome che vale sia per uomini che... È una cosa che scopriremo quando intervisteremo Sanneleisen, se mai lo intervisteremo, perché probabilmente è ancora lì, non so se la birra ha sortito il suo effetto. Comunque, nel frattempo, chiaramente sono andato a incontrare altre persone protagoniste di questa tappa, tra queste c'è il velocista che abbiamo citato prima, autore di un'ottima volata, Nicolò Bonifazio, e sentiamo le sue impressioni a caldo. Senti, ti ho visto subito dopo l'arrivo con Sonny che vi confrontavate sulla volata, cosa vi siete detti? Sì, niente particolare, come è andata, come non è andata. Sono momenti concitati e spesso non ci ricordiamo cosa succede, ecco, quindi certe volte magari facciamo degli errori e poi chiediamo scusa, ma non è successo niente, quindi parlavamo solo dello sprint. Adesso rivederlo è la prima cosa che fai o prima la doccia? No, adesso mi calmo, poi stasera con calma e riguarderò lo sprint. Ieri ero in corsa in Ammiraglia e ti ho visto sofferente, se posso dirlo, era una tappa molto dura. Oggi hai trovato le energie per essere invece lì davanti sui primissimi. Dove si trovano queste energie a fine giro? Che immagino che serbatoio sia abbastanza vuoto. Ah, sinceramente non lo so, a dire la verità. Pensavo al ritiro 2 giorni fa e ho avuto una forma di influenza, bronchite. E avevo veramente brutte sensazioni. Ieri mi sono sopravvissuto solo con la grinta e oggi sto un po' meglio. E grazie anche al dottore della squadra, ho cercato di recuperare un po' e oggi ho provato. Dai, buon riposo, in bocca al lupo. Grazie, grazie mille. Grazie. Il vantaggio del registrare nei parcheggi è che ci sono così incontri particolari. Adesso chi sta muovendo l'automobile alle nostre spalle sventola degli adesivi di Al Vento per rendersi partecipe al nostro podcast. Posso dire che il sopravvivere a se stessi di Bonifazio è un bellissimo concetto. Decisamente, e anche il fatto che non sa dove ha tirato fuori queste energie. Cioè, a un certo punto si entra in una zona di ignoto completo. E questo momento del Giro d'Italia, con Bonifazio ci ho parlato un po' di più, abbiamo parlato anche dell'incidente di Sanne Marit che sicuramente ha segnato la squadra. Si entra in una fase, vale per i velocisti, che sono quelli che più hanno faticato. Io Bonifazio ieri l'ho visto, essendo in Ammiraglia dietro sulla coda del gruppo, l'ho visto soffrire veramente tanto, ma vale per i velocisti quanto per gli uomini di classifica. Si entra in una zona di totale ignoto, dove sono le energie e dove le si tira fuori e come sopravvivere a se stessi. Misteriose sono anche le volate di questo Giro d'Italia, ne abbiamo parlato già non in tante occasioni perché non sono state tante, e uno dei motivi così che abbiamo riscontrato nell'analizzare le volate è stata l'assenza dei treni e nello specifico l'assenza degli ultimi uomini che avevano un po' plasmato le volate del ciclismo degli ultimi anni. Il caso vuole che appoggiato alla transenna, senza nemmeno un pass al collo, molto rilassato all'arrivo, ci fosse Maxi Ricese, uno dei migliori ultimi uomini degli ultimi anni, e così abbiamo avuto l'occasione di scambiare qualche parola con lui proprio su questo argomento. Maxi Ricese, in vacanza al Giro d'Italia? Sì, siamo venuti a vedere la tappa di oggi, forse anche la partenza di domani, però beh, dai, sempre bello ritrovare anche i vecchi amici, diciamo. Ti ho cercato per una ragione: noi stiamo analizzando tutte le volate di questo Giro d'Italia e i treni non funzionano più come una volta. E una delle ragioni che trovavamo è che non ci sono più i grandi ultimi uomini. Guarnieri ormai è abbastanza vecchio, Ricese non c'è più, e Morkov anche. Cosa succede nelle volate oggi? Sono scomparsi gli ultimi uomini? Sono un po', sì, diciamo, sconvolte le volate. È difficile, no? Cioè, fare anche trovare ultimi uomini, i corridori avere la consapevolezza di fare l'ultimo uomo non è facile. Perché tante volte l'ultimo uomo c'è un scalino sotto il velocista e magari ha sempre il pensiero di fare la volata o fare la sua gara, no? I veri ultimi uomini lasciavano tutto per il suo capitano, però comunque vediamo sempre le squadre un po' più divise, no? Vanno verso gli scalatori, i velocisti sempre con meno corridori. Abbiamo visto oggi Milan, cioè, ha perso 3 volate a photo finish. Però con un ultimo sempre, uomo Milan che lo portava avanti. Bravo, cioè, poteva essere già 4 tappe vinte. Magari lui giovane, manca per lì da solo, ancora gli manca l'esperienza, però penso che con un bel ultimo uomo avrebbe vinto queste 3 tappe facili, diciamo. Con te? Sì, magari con me o con un altro ultimo uomo, no? Ci sono ancora corridori forti, bisogna avere la mentalità e lavorare su quello. Io per fortuna ho trovato la squadra perfetta per imparare quel mestiere là, che è stata la Quickstep, e da lì ho imparato bene il mestiere e anche farmi valere come corridore, no? Perché è sempre un bel lavoro, hai tanta pressione anche perché devi fare vincere sempre il tuo capitano, quindi da lì è partito tutto. Ma quindi non è un'arte che si sta perdendo, quella dell'ultimo uomo? Ne arriveranno di nuovi? Speriamo, perché è sempre bello anche nelle volate vedere i treni, e ormai già non li vediamo, è tutto una mescola di corridori. Se tu adesso fossi un direttore sportivo e dovessi scegliere un ultimo uomo, chi prenderesti? Tra i velocisti di oggi, tra i corridori di oggi. Beh, ancora Morkov, sappiamo che è molto bravo, Luca Mesek. Giovani, ne avevo qualcuno visto che era bravo, però ora mi sfugge il nome. Beh, anche Luca Mesek, anche lui è bravo. No, ce ne sono 2 o 3 forti. Va bene, grazie mille. No, grazie a voi. Buon giro. Grazie. Visto da di qua. Ok, sì, è grazie. Bello anche da di qua. Meno faticoso, diciamo. Meno faticoso. Ciao, grazie mille. Ciao. Beh, Luca Mesgec, anche lui, che peraltro non sappiamo mai come sia. Luca Mesgec dovrebbe essere una cosa simile. Anche lui non è giovanissimo. C'è probabilmente un vuoto nella generazione degli ultimi uomini. C'è Van Poppel, c'è un vuoto anche nella memoria in questo momento di Maxi Riccese, ma effettivamente le domande a caldo non sono mai facili, se le fate a me non ho mai risposte. E tra i corridori che oggi si sono dovuti un po' arrangiare e fare tutto da soli, anche perché lui corre per una squadra che in questo momento ha molto più interesse a guardare la classifica generale che alle volate, parliamo della UAE Emirates, è Pascal Ackermann, il velocista di questa squadra, già una vittoria in questo Giro d'Italia, oggi è arrivato decimo. È uno dei corridori più sorridenti in questo Giro d'Italia, forse oggi pomeriggio dopo il decimo posto in volata un po' meno, però abbiamo la fortuna di aver parlato con lui al mattino e quindi lui era sorridente quando gli abbiamo fatto questa intervista sul suo giro, sulla sua felicità soprattutto, perché ci ha colpito molto anche in alcune apparizioni televisive che ha avuto, e quindi ascoltiamo la prima parte della chiacchierata con lui, Pascal Ackermann. Possiamo parlare un po' in italiano? No, in inglese. Poco. But you can understand when people from the road shout your name, because yesterday or 2 days ago we saw you bringing a bottle to a boy or a girl. Yeah, I mean, it's always nice to see the spectators on the roads. Everybody is happy about seeing the cyclists here, and I think the Tifos here and also the atmosphere here is unbelievable, and I think Italy is one of the best countries to race. And you seem to be like the happiest rider in the Giro. You are always smiling. What's your secret, and how come you are so happy this Giro? No, I think I really have passion for cycling. It's what I love to do, and I mean, I do my hobby for work. So why I shouldn't smile? That's a good answer. E allora, avete sentito che lui parla molto poco l'italiano, quindi abbiamo preferito fare in inglese l'intervista. Gli ho detto qualcosa comunque in italiano, devi capirla, almeno quando ti urlano da bordo strada i tifosi, visto che qualche giorno fa ti abbiamo visto avvicinarti a una ragazzina per darle una borraccia, ha girato molto quel suo video, e lui ha risposto, beh sì, è sempre bello vedere persone a bordo strada, e poi qui tutti i tifosi sono felici di veder passare i ciclisti, l'atmosfera è incredibile, l'Italia è uno dei posti migliori per competere per le corse in bicicletta. Non ha detto neanche lui l'Italia è il paese che amo, no, purtroppo. Ancora una volta questa frase non è stata pronunciata. Gli ho appunto detto, sembri il ciclista più felice del gruppo, sorridi sempre, è vero? Qual è il tuo segreto? Perché sei così felice a questo Giro d'Italia? E lui ha risposto, beh, il ciclismo è la mia passione, è quello che amo fare, è il mio hobby e coincide col mio lavoro, quindi perché non dovrei sorridere? Sai che oggi l'ho visto, scusa Leo, l'ho visto alla partenza a foglio firma ed era così felice che ho voluto fargli una foto. E Alessandro Autieri, che per al vento cura la newsletter giornaliera, mi ha scritto, sembra Pogacar, no? Per dire che la giovinezza, la freschezza, la felicità di Ackermann lo ringiovanisce quasi. Certo, e perché non sorridere, ha detto lui, che è un'ottima risposta, anche se in realtà è una domanda. E dopodiché gli ho chiesto come seconda domanda qualcosa sui parenti che sono venuti a visitarlo, a fargli il tifo negli ultimi giorni, e soprattutto immancabilmente sulla nonna, perché è arrivata a un certo punto la nonna di Pascal Ackermann. L'angolo delle nonne, l'angolo anche delle oggi nonni, lo abbiamo rispettato. E sentiamo cosa ci ha detto Ackermann della sua famiglia e della sua nonna nello specifico. Yeah, my family is really into cycling. My parents were cyclists before too, like on amateur level. My brother, sister was cyclists, so they really have passion for cycling, and for them it's like holiday to travel around the world and see the cycling races. And I mean, what's better to come to Italy, watch a race, and have good food after the race? So I mean, it's nearly like holidays. And yeah, my grandma, they drove here by car with my grandma, my parents, and then my aunt took her home again, so that she just stays like 2 days, because otherwise the trip is too long. And yeah, for Rome they will come again, not my grandma, but the rest of my family will. How old is she, your grandma? 82. 82, and her name? Maria. Did she have a role in your passion for cycling? I mean, where does she come from, your passion? I mean, my passion, I think, was out of the family, because I had no other choice, because everybody was doing bike rides, so I did the same. She went with me every day to the forest with the bike, and we did nearly every day a trip out and discovered the home area bit by bike. So yeah, I think she has a big part of the cycling. Grazie mille. Welcome. Thank you. E allora dice: sì, tutta la mia famiglia ama il ciclismo. Entrambi i miei genitori sono stati ciclisti a livello amatoriale. Mio fratello e mia sorella andavano in bici. Per tutti loro venire in Italia è una vacanza, o in generale andare in giro per il mondo a seguire le corse è una vacanza. E poi voglio dire, che c'è di meglio di venire qui in Italia per vedere una corsa di ciclismo e dopo andare a mangiare buon cibo? Già un'altra volta avevamo avuto questa osservazione da un corridore, che in questo momento non ricordo chi fosse. Ma forse era uno di noi a bordo del furgone. Sì, no, ma era un ciclista del giro, ce lo segnaleranno di sicuro. Mia nonna, ha raccontato Ackermann, è venuta in auto con i miei genitori, poi mia zia l'ha riportata a casa, è stata in tutto 2 giorni, di più sarebbe stato troppo per lei. Comunque torneranno di nuovo per la tappa di Roma, ma senza la nonna. Quanti anni ha? Lei, la nonna, gli ho chiesto, 82. E come si chiama? Si chiama Maria. Gli ho chiesto se ha avuto un ruolo, sua nonna, nell'appassionarsi di Pascal Ackermann rispetto al ciclismo, alla bicicletta. Sì, certo, la mia passione deriva dalla mia famiglia, non avevo scelta, si può dire, tutti andavano in bici, con mia nonna nello specifico andavamo in bici quasi tutti i giorni quando ero piccolo, e quindi sì, anche lei ha avuto un ruolo fondamentale nel mio diventare appassionato e innamorato del ciclismo. Suonano le campane della piccola Venezia a Caorle, e sul suono delle campane suona la campana della fine di questa rubrica dedicata alla tappa di oggi, e passiamo alla classifica generale. Sì, passiamo alla classifica generale, che non è cambiata nelle prime posizioni. E forse non me la leggo, ma ve la leggo, dai. Come vuoi, se no. Sì, dai, ho trovato la forza per leggervela. Geraint Thomas è in maglia rosa con 18 secondi di vantaggi su João Almeida. Terzo Primoz Roglic con 29 secondi di ritardo. Poi, dopo questa interruzione, dopo il podio, ci sono Damiano Caruso con 2 minuti e 50, Eddie Dunbar 3.03, a seguire Kemna al sesto posto 3 minuti e 20, Armirail a 3.22, Andreas Leknes un ottavo a 3.30, Timen Aresman 4.09, decimo Laurens De Plus a 4.32. Solo un cambiamento, forse di rilievo: Yukihara Shiro ha perso 2 posizioni, o le ha guadagnate, dipende dai punti di vista. Adesso è penultimo in classifica generale, ha 2 minuti di ritardo o vantaggio su Nicolas Dalla Valle, che è la maglia nera del Giro d'Italia in questo momento. Sapete chi è 69esimo in classifica generale? 69esimo? Non lo so, te lo potrei dire, ma non... È... Matteo Ricitello. Ah, giusto. Uno, sì, dei nostri favoriti. Sì, che non parliamo di lui da troppi giorni. Che oggi ho visto in una foto che voglio citare, in una rubrica così, la facciamo partire adesso, anche se è la fine del giro ormai, si chiama La foto del giorno. che per un podcast è l'ideale. Ideale, mi confermi? Sì, certo, raccontare le foto in un podcast è una cosa che si fa molto spesso. La foto del giorno era questa: in partenza a Pergine Valsugana c'era un piccolo giardino a fianco del foglio firma. Su questo giardino erano seduti vari corridori statunitensi. Sì, l'ho vista, è una bella foto in realtà, sì. Will Barta, Larry Warbasse, Joe Dombrowski e soprattutto Matthew Riccitello. Certo, perché non avrebbe dovuto esserci? Americano. L'abbiamo citato, abbiamo fatto il nostro compito anche oggi. Scusa, se tu vedi un prato e sei con Riccitello, la prima cosa che fai è sederti sul prato a parlare con Riccitello, no? Ovvio, ovvio, infatti... Quindi... Ma rimanendo nel mondo anglofono, ma saltando dal continente americano a quello europeo, al Galles nello specifico, Geraint Thomas, l'abbiamo visto anche oggi in conferenza stampa perché veste la maglia rosa, super super super rilassato. Mi ha veramente colpito la serenità, la seraficità di Geraint Thomas oggi, sempre lui lo è, ma oggi alla vigilia di tre giorni decisivi per il Giro, con lui che ci arriva in maglia rosa senza un vantaggio rassicurante, mi ha colpito la sua calma. Era lì a firmare autografi fino a mezz'ora fa con il pubblico di Caorle e quindi secondo me questo sarà un punto importante nei prossimi giorni, come lui gestirà con la sua esperienza e la sua calma le situazioni che eventualmente dovessero presentarsi di confusione o di attacchi che dovessero portargli i suoi avversari. È molto importante per Thomas avere la sua età, la sua esperienza, le sue gambe in questo momento e la sua calma. Sulla giornata di oggi ha un po' scherzato con i giornalisti perché ha detto solo 10 minuti di pioggia, ah ah ah, non puoi avere una giornata senza pioggia al Giro d'Italia. La ah ah non l'ho sentito, ero nella stessa stanza. Era un po' aggiungevo io, insomma, quelle freddure un po', no, britanniche. Ah no, perché poi l'ha tradotto in inglese, si dirà diverso, ah ah ah. No. Oh oh oh, penso sia questo, so. Cambia vocale. Yaha, non mi ricordo da dove provenissero, ma tu non sai chi siano, per cui andiamo avanti. Ha detto che domani sarà un finale molto duro, ha previsto questa cosa, e secondo me ci sta, poi vedremo la tappa di domani, si addice a un finale tosto. Sì, sì, assolutamente, si addice a lui nello specifico, però stiamo anticipando i pronostici di domani e non è il momento, quindi direi di fermarci con... parole che parlano di futuro, rimaniamo al presente, rimaniamo a quello che ci serve per essere felici, vincenti soprattutto. Cosa ci serve? Cosa abbiamo imparato in questo giro che bisogna fare per vincere? Per essere al top bisogna avere la ricetta giusta. Ascoltiamo. Le ricette dei campioni, per campioni veri, veri, veri, veri, per vincere, vincere, con cibo e gusto! Buonasera amici e bentrovati alle ricette dei campioni per una nuova, entusiasmante ma soprattutto buonissima ricetta che vi permetterà di vincere! Salve Gustav, cosa ci prepara oggi? Oggi andiamo a preparare una spuma di carote impreziosita da trito di garofano per vincere una volta per tutte. Sento già l'acquolina in bocca, oltre ad intravedere una vittoria definitiva. E allora, sigla! Le ricette dei campioni, vincere, vincere, vincere, la ricetta di oggi. Questa ricetta è oltremodo semplicissima. Per fare un'ottima spuma di carote impreziosita da trito di garofano per vincere una volta per tutte, occorre un legno sugheroso del 1978, uno scalogno già affettato da qualcuno, un pane lievitato 303 ore proveniente da una grotta nordafricana, una rondella di carota e coriandoli di formaggio a vostra scelta. Fate evaporare tutto per circa un minuto, diciamo un minuto e mezzo, e voilà, il piatto è pronto. Aggiungete garofani rosa tritati, ma mi raccomando, non esagerate. Non piace al piatto, non piace a me e non piace a chi vuole vincere. Non vi resta che gustarlo prima di essere acclamati. Grazie, Gustav. E voi che ci seguite, siete pronti per vincere per sempre? Fa molto ridere! Le ricette dei campioni per vincere, vincere, vincere con cibo e gusto vi dà appuntamento alla prossima ricetta! Questa è definitiva. Sì, è abbastanza spaventosa. Cioè, se mangi questa cosa, questo vinci per sempre. però mi sembra che il succo sia... Il succo non c'era. Il succo sia far evaporare tutto. Sì, ma in un minuto massimo, un minuto e mezzo. Vabbè, quindi una Il tempismo è fondamentale. Istantaneo, sì, sì, sì. Sì, a me spaventa un po'. Cioè, tutti gli altri ingredienti, secondo me, sono più o meno recuperabili. Anche le grotte del Nord Africa, secondo me, ce la si può fare. E lo scalogno affettato da triturato da qualcuno. Che, la singola rondella di carota potrebbe essere. Ma come si fa a capire se quel qualcuno è il qualcuno giusto? Non lo so, io non... Poi non so perché ridano in continuazione in questo modo così inquietante. Diciamo che sono problemi difficili da risolvere. Certo, sono problemi difficili, non quanto quelli che ormai ci portiamo avanti da un paio di giorni. Soprattutto i ragazzi del liceo di Rivoli si portano avanti. No, beh, il liceo di Rivoli mi sa che quando è suonata la campanella con questa roba è finita, sì. Noi invece non ce lo siamo dimenticati e questa mattina, siccome non avevamo molto di meglio da fare, siamo andati a portare il compito in classe di statistica, di statistica a Mattia Bais e Davide Bais, che sono i protagonisti del primo quesito proposto in questo compito, e ascoltiamo, abbiamo letto insieme a loro i quesiti, chiesto un po' a loro se volevano risolvere, insomma, ascoltate questo incontro che è molto divertente. Allora, ragazzi, buongiorno, siamo con Mattia e Davide Bais, che sono protagonisti in questo giro non solo sulle strade, ma forse lo sapete anche sui banchi delle scuole italiane, perché c'è questo liceo di Rivoli. Sì. Dove due giorni fa c'è stato un compito in classe di matematica e voi eravate nel primo quesito di matematica, che adesso vi leggo. Perché c'è scritto: al Giro d'Italia, le tre più belle settimane dell'anno per il professor Panetta, partecipano i due fratelli Bais, Mattia e Davide. La probabilità che Mattia vada in fuga è del 30%, mentre per Davide la probabilità scende al 25%. Sono più scarso. Sei più scarso? Sì, sì, sono più scarso. Questa è un'assunzione che ha fatto il professore, comunque. Poi la domanda per gli alunni, sono quattro domande. Sì. Determina qual è la probabilità: A, che vadano entrambi in fuga; B, che nessuno dei due vada in fuga; C, che solo uno dei due vada in fuga; e D, che almeno uno dei due vada in fuga. La D, dai, almeno uno dei due. Ma non c'è da scegliere, qui per ogni punto i ragazzi dovevano calcolare con la statistica la risposta. Voi avete idea di come si possa risolvere un problema del genere? Dai, è bello comunque che questa cosa è carina. Allora, io ho le risposte, però sentiamo prima secondo voi quali sono le risposte. Allora, secondo voi alla A, che vadano entrambi in fuga, qual è la percentuale, la probabilità che tutti e due siete nella stessa fuga? 40. Che hanno votato 40. No, che hanno votato. Ah. Secondo il calcolo statistico di questo esercizio. Dai, mettiamo il 20. 20, dice Davide. Invece Mattia? 20, dai. 20. La risposta esatta è... lo dico subito, il 7,5%. Era più bassa. Invece che nessuno dei due sia in fuga? Nessuno dei due. Questo spero bassa, quindi il 2%. Il 2%. Io direi 10, dai. Questa è più alta, questa è 52,5. Invece che solo uno dei due, cioè che uno vada e che l'altro no? 60. Sei vicino, ma non ancora. 50. 40 questa. 40, dai. E invece l'ultima, che almeno uno dei due vada in fuga. Cioè, che vuol dire? Potrebbe essere solo uno o tutti e due? 85. Caspita. Diciamo 50, dai. 47,5. Mattia, dai. Sei arrivato vicinissimo. Sì. Al di là di tutto, voi come andavate a scuola in matematica? Dai, io la cavavo con la sufficienza, non tanto più, Uguale anch'io. Ma che scuola avete fatto, superiore? Abbiamo fatto una scuola professionale, a Rovereto, CFP Veronesi. Anch'io uguale. La stessa scuola? Stessa scuola, sì, sì. Quindi sì. Sei matematica tutti e due? No, dai, forse un po' di più, però okay, dai. Sì, sì, sì. E le altre materie? Non eravamo dell'eccellenza a scuola, abbiamo preferito sempre pedalare e niente. Uguale. Sufficienza in tutte le materie, sì, però, ve la cavavate. Beh, bastava, dai, giusto... Per passare l'anno, dai. Avete avuto mai un compito in classe in cui si parlava di ciclismo? C'erano domande? No, su... questo no. No. Prima volta che sento che... È bella questa cosa, dai, siamo contenti che... E poi ci hanno menzionato noi e... No, adesso vi lascio intanto la copia del compito. Non so se volete salutare i ragazzi del liceo di Rivoli, dai, che hanno risolto... Li salutiamo molto volentieri, li ringraziamo. Per questa cosa carinissima e bella. E invece una domanda su quello che è successo ieri, perché ho visto questo video con i vostri tifosi sul ponte. No, ieri c'era il nostro grande fan club, ci hanno fermati, ci hanno dato qualche spinta per arrivare all'arrivo. Ed è servita? Sì, dai, no, non è servita perché alla fine bastava arrivare all'arrivo. È stato molto bello che ci siamo fermati a fare due chiacchiere e nulla. Mi hanno preso un po' a sberle. Infatti non stavo capendo quel momento, però è stato bellissimo trovare tutti là. Ma perché a te sia Davide? Non è troppo grosso Davide? No, perché sei arrivato più tardi. E sono un po' più grosso, quindi sì. Grazie mille. Grazie a te. E allora, sono molto orgoglioso di questo contributo. Io, forse qualcuno saprà, chi non lo sarebbe, ho dedicato molti anni della mia vita alla statistica e questa è la cosa più vicina ai miei studi che abbia fatto da molti anni a questa parte, risolvere o tentare di risolvere un quesito sul ciclismo con due ciclisti. Sono felicissimo. Non li hai risolti tu però i quesiti, non accaparrarti meriti che non hai, perché le risposte, avendo noi condiviso questo compito, le ha date un nostro ascoltatore, un iscritto al nostro gruppo Telegram, che è Alessandro A, tra parentesi, VCN, World Cycling Network. Forse Western Conference Nation? Sempre Network. NBA, non lo sappiamo, comunque ha dato le risposte, le ha date praticamente corrette, perché abbiamo verificato con il professore che ha commissionato, si dice, questo compito è la parola giusta, somministrato rifilato questo compito ai suoi studenti, che ci dice che, diciamo, che Alessandro A, tra parentesi VCN, merita un bel voto, anche se io non metto i voti mai timbrini, per che cui timbrini? Che vuol dire timbrini? Merita un bel timbrino, non lo so, ci informeremo anche su questa cosa dei timbrini. L'unica cosa, lui dice, per gli studenti è obbligatorio far vedere i passaggi, altrimenti l'esercizio non vale, perché sennò uno tira a caso. Ad ogni modo, bravo Alessandro che ha risolto tutto, bravi fratelli Weiss che non hanno risolto questo però esercizio, ma lo hanno creato, perché senza di loro questo esercizio non ci sarebbe mai stato. E si sono portati a casa, intanto nel bus, poi non so che ne faranno, la copia cartacea del compito in classe. Non so se sia stato lasciato un omaggio anche al nostro collaboratore ormai onnipresente nel podcast, Derek G, Questa mattina io stavo facendo altre interviste, ma passo avanti al bus della Israel e vedo Derek G insieme al famoso tifoso canadese, già visto in più occasioni e anche già menzionato da Derek. Si sono fatti una foto insieme con la bandiera srotolata e quindi gli abbiamo chiesto come è stato questo incontro. Yeah, the team wanted to get in touch with him after all the support he's shown and yeah, reached out and he managed to come to the start today, so it was really cool to meet him. What did he say to you? Finally, with you standing and not on the bike. he just said that I'd inspired him, and to be honest, it was the same. He's been inspiring me every day with with all that encouragement, and yeah, it was really cool to just meet a fan from Canada. Mutual inspiration. Exactly, yeah. Okay, last point. You know that everyone is looking for a nickname for you. And one of our listeners discovered that it's existing, the GG Bird. Do you know that? I've never heard of that. It's like a sort of impossible to see, it's like a sort of a Bigfoot of the birds. Oh yeah? In Alaska. Yeah. So, well. That's funny. Yeah, I mean, it fits, I guess. Thanks so much. Thanks. Ciao. Gli abbiamo chiesto dell'incontro con il tifoso canadese, lui dice che la squadra voleva contattarlo dopo tutto il supporto che lui ha dato e lo hanno raggiunto, sono riusciti a contattarlo, così oggi è venuto alla partenza, è stato fico, dice. Effettivamente è fico incontrare i tifosi. Gli ho chiesto cosa si sono detti, visto che per una volta si sono visti fermi sui piedi e non in bicicletta, e lui dice: mi ha detto che sono stato un'ispirazione per lui e onestamente per me è lo stesso. Lui lo è stato per me con tutto il suo incoraggiamento. È stato fico, di nuovo, incontrare un tifoso canadese e ci siamo ispirati a vicenda. Che è bellissimo questo modo di incontrarsi tra ciclisti e tifosi. Un altro modo è trovare dei soprannomi, e io già che c'ero non ho potuto non proporre a Derek G il famoso GG Bird che ha suggerito il nostro ascoltatore Davide nel gruppo Telegram, che è una specie di uccello Bigfoot dell'Alaska, impossibile da vedere. E Derek G, oltre a farsi grasse risate, aver trovato l'idea molto divertente, dice che in effetti si adatta a lui, per cui non so se abbiamo trovato il soprannome definitivo, però GG Bird è in questo momento in testa, possiamo dirlo, nella classifica dei soprannomi di Derek G. Ma quindi G ha la passione del birdwatching? Non sapevo, non è mai stato citato fino adesso nel podcast. Ah, si fa dell'ironia quest'oggi, no, Gironimo. Bene, bene, mi piace questo slancio. Ti posso dire un'altra cosa, vuoi? Vai. Non so se vincerà il Giro d'Italia, sì, però se vince, tienitela tu che sei wannabe giornalista, uso il linguaggio che sai. Primoz Roglic viene dal salto con gli sci. Ma va? Sì. Ma sì, dai, che bomba di notizie che mi hai dato. Ti do grandi notizie, abbiamo così vissuto, se si può vivere una notizia, al ritrovo di partenza quest'oggi, perché dovete sapere che io da alcuni anni, da quando seguiamo il Giro d'Italia, soprattutto gli anni insieme a Gino Cervi, sempre sia lodato, spesso e volentieri quando si passa sulle strade trentine lui ci cita il mitico Museo del Paracarro. Ah, che meraviglia. Che è un luogo che io sogno di visitare ogni giorno della mia vita. Poi questa cosa che mi menziona Gino me la dimentico con la fine del Giro d'Italia, come tante cose quando finisce il Giro d'Italia io mi dimentico tutto quello che è successo al Giro d'Italia. E però oggi in un qualche modo è ritornata fuori, perché io ero lì che dovevo fare delle interviste e un tizio si infila tra una siepe, una transenna, per chiamare la mia attenzione. Era vestito con una maglia di ciclismo d'epoca, o come dite voi giovani pelacci, vintage, e richiama la mia attenzione perché vuole contattare Damiano Caruso. E gli ho detto che non poteva accedere al parcheggio, purtroppo. Lo stavo, ammetto, dico la verità, dovevo fare delle interviste, lo stavo anche un po' liquidando. Se non che lui mi ha detto: io ho il Museo del Paracarro, e non ho potuto fare altro che abbandonare tutte le interviste che dovevo fare, uscire dall'area bus e fermarmi a parlare con lui. Dario allora... Pegoretti ti chiami? Sì. Sei omonimo? È morto. Ma dimmi un attimo meglio del Museo del Paracarro. Praticamente io lavoravo sulle strade, sapevano che tutti i paracarri erano fuori legge. Sto registrando, sì. Erano fuori legge, allora ho incominciato a raccoglierli. Ognuno è dedicato a un ciclista. Ma è bellissimo. E il primo che ho preso è stato lo Stelvio, è stato dedicato a Coppi. E via via, ce n'ho 300, ognuno. L'ultimo che è arrivato, l'abbiamo messo giù l'altra sera, e l'avevo preso a Ragusa 15 giorni fa, che c'era una tappa del Giro d'Italia d'epoca, e l'abbiamo dedicato a Damiano Caruso, che è di Ragusa. Per cui il Museo del Paracarro va da Coppi a Caruso. Chissà quanti ne verranno. Ci ne ho 300. Tutti. 300 paracarri? Attualmente. Beh, comunque pesano i paracarri, come si fa a portarli? Col camper erano portati su da... li tiri su a braccia. È portato qualche mezzo pesante anche con i mezzi, qualche scavatore. Ma che arrivano quasi tutti, a parte quello di Mers che pesa 17 quintali, pesa gli come altri le sue li ho portati tutti con la mio camper. Dov'è il Museo del Paracarro? A Canesa, c'è scritto. È sulla strada, immagino. Il Museo del Paracarro dovrà essere però, sulla strada. Tu puoi andare a casa mia, c'è il parco pubblico. È il tuo, è il parco sotto casa tua? Sì. Tu lo vedi, lo puoi vedere tutti, e anche di notte, è sempre libero, non paghi niente. Se ci sono, vi dico, perché ognuno ha una storia. Quanto è importante Paolo Conte nella nascita del Museo del Paracarro? Sì, no. L'ho sentito, però... Non è dovuto a lui. La mia idea era dal mio lavoro che facevo, e leggendo, insomma ero un tecnico delle gallerie, leggendo i codici della strada del 59, ho scoperto che erano fuori legge e allora li buttavano via. Okay. E se uno li va contro adesso, l'ente gestore della strada deve pagare i danni. Ma se uno va a vedere le corse cicliste, scusa se torno di nuovo a Paolo Conte, è sempre una buona idea sedersi sul paracarro per aspettare. Sì. Ce n'ho uno che me l'hanno detto all'inaugurazione nel 2008, è stata fatta allora. Aldo Moser, che c'era allora, mi ha detto: guarda che qua manca il paracarro di Bitossi, perché Franco Bitossi, sai che aveva un cuore matto, e in corsa doveva fermarsi 2 minuti e mezzo fermo su un paracarro. Io ho una foto con la maglia Filotes seduto su un paracarro. Ho trovato un paracarro simile, uguale, e l'abbiamo messo tra Motta e e è Merckx. Bellissimo, grazie mille. E sai cosa mi ha detto Motta? Cosa ti ha detto? Quando gli ho detto, guarda che ho procurato un paracarro della Val di Vetriolo, che lui ha vinto il giro nel 66 facendo lì. E lui mi ha detto, l'importante è che non mi metti vicino a Gimondi. E ho dovuto metterlo vicino a Merckx, perché era amico di Merckx. Grazie mille. Ma ci sono delle bellissime storie. Dunque, la prossima volta ricordiamoci adesso anche il biglietto da visita di Dario Pegoretti, omonimo del buon telaista Dario Pegoretti, e la prossima volta che passiamo da queste parti o ci torniamo apposta nella frazione Canezza di Pergine Valsugana per andare a vedere il Museo del Paracarro. C'è addirittura l'Associazione Museo del Paracarro di Canezza e mi sembra che ci siano parecchi paracarri interessanti, per cui ci torneremo. Anche per essere memori un po' di questo che è stato l'unico incontro di questa nostra giornata, che per il resto abbiamo passato in coda su statali del Trentino. Ammettiamo che vedere la corsa dalla statale 46-47, cos'era, della Valsugana non era esattamente ciò che avevamo in programma, perché un insano blocco autostradale, diciamo, ci ha obbligato a rimanere fermi tipo... Bello dare la colpa agli altri, un insano ritardo nostro nel muoverci, che era la verità, non solo nostro però, perché tanti sono rimasti bloccati. Un plauso a Federico Bona, che avete sentito l'altro giorno, che ha provato a aprire la coda come fosse Mosè per far passare tutti i mezzi accreditati del Giro d'Italia. Insomma, non ci è riuscito. Non vi posso lasciare un giorno che vi perdete, vabbè, perché io non sono stato... con i miei due colleghi, coinquilini, co-viaggiatori, perché sono stato a bordo di una delle auto dell'assistenza tecnica Shimano e lo ascolteremo dopo un po' di cosine che sono successe, non tante, perché è stata una tappa abbastanza soporifera anche nelle auto a seguito della corsa, dentro la corsa, ma... proiettiamoci al futuro, a breve termine, domani. Sì, proiettiamoci al futuro tornando a questa mattina di nuovo. Andiamo nel futuro tornando nel passato, perché un incontro ancora lo abbiamo fatto con un trentino questa mattina. Era Cesare Benedetti, che io ho cercato per farmi raccontare la sua emozione della tappa trentina di ieri, ma anche per farmi spiegare un po' meglio cosa ci aspetta domani sulle strade del Giro. L'hai anche scritto su Twitter: la giornata di ieri è stata un'emozione indescrivibile per te, sulle tue strade, se ce la racconti, come è stata proprio questa emozione? Sì, ma partendo dal fatto che settimana scorsa sono stato male e sono state un paio di giornate dove veramente pensavo di andare a casa, ho avuto un virus gastrointestinale e non è stato facile, insomma, arrivare alla fine di un paio di tappe, mi viene in mente soprattutto quella di Viareggio. Per cui sì, è valso tanto la pena tenere duro. Ieri era la terza volta nella storia che il giro passava da Renzo Chienis. Vista la mia età, diciamo, a livello ciclisticamente parlando, sicuramente in carriera non capiterà più di passare per la Val di Gresta, insomma, col giro. E il fatto comunque di essere in fuga insieme a Conrad, di aver fatto tutto il paese da fondo a cima, davanti, è stata a livello emozionale, penso di aver raggiunto, insomma, l'apice, no, ciclisticamente parlando. E poi sì, in particolare Renzo Chienis, però insomma tutto il percorso in Trentino ieri mi ha veramente fatto tantissimo piacere. Eh sì, sono le cose che, sai, magari a fine carriera o fra non so quanti anni, quello che alla fine resta, no? Al di là dei risultati o prestazioni, no? Rimangono come emozioni a livello umano magari. Ma l'hai sentito anche tu quell'odore di grigliata, di costine, Renzo Chienis? Perché io sono passato in Ammiraglia e ci è venuta una fame improvvisa. Sì, sì, tra carne salata, pasta di maiale, i miei amici del ristorante Martinelli hanno organizzato, hanno messo in piedi una bella festa, non solo di mangiare, anche da bere, di positivo quest'anno c'era che non dovevano guidare per andare a casa, per cui potevano alzare il gomito ancora un po' di più. Domani siamo sempre su queste montagne e mi chiedo quanto tu ne conosci di tuoi allenamenti o di tue scampagnate anche, no, in famiglia. Qua sono troppo, troppo lontano da casa e se ho fatto qualcosa l'ho fatto ai precedenti giri d'Italia, sicuramente siamo passati da queste parti, però non, personalmente non ho fatto nessuna ricognizione su questa tappa. Ah, ma io ti avrei chiesto le osterie, non le salite. Ah, ho capito. No. Quelle potevo dirtele ieri sul percorso, diverse anche. Oggi per la tappa di domani non sono preparato. Bene. Grazie mille Cesare, buona fine di giro a questo punto. Grazie. Dunque, delle strade di domani Cesare Benedetti non ne sa molto, delle osterie ne avrebbe saputo ieri, d'altronde domani è una tappa trentina per modo di dire, perché di fatto è una tappa sulle strade venete. Come i lavoratori e gli intrattenitori del villaggio del Giro, Giroland, si intendono molto di musica pop, diciamo, quella che è, Michele Pelacci si intende di discorsi delle tappe. Sì, più o meno, guardo le altimetrie, diciamo. Certo, doveva essere un percorso, ma questo non lo tagliamo, perché è bello tenere anche gli errori. Domani, bellissima tappa, secondo me, si arriva a Belluno, provincia di Belluno. Non che si arriva a Belluno. In provincia di Belluno. In provincia di Belluno, che è la migliore provincia del Veneto, così facciamo litigare un po' gli amici che ci ascoltano. Sì, non facciamolo questa cosa, regione. Non litigate, amici. Domani si comincia a Oderzo, subito una salita tosta, che è il Cansiglio, la foresta del passo della Crosetta, il GPM si chiama così. Poi si attraversano l'Alpago, il Cadore, ai meno 32 comincia un roller coaster significativo per finire la tappa di domani, appunto a Cibiena di Cadore si sale verso l'omonima Forcella, poi si scende Forno di Zoldo, qui 5 km al 9,5%, quindi a pendenza anche in doppia cifra, verso Coi, piccola discesa, rampa finale verso Palafavera, che è una frazione piccolina sotto la Forcella Staulanza. Palafavera, noi pensavamo tutti, no Filippo, dimmi anche tu, che fosse un palasport, il nome di un piccolo palazzetto del Sicuro ghiaccio. Che siamo forse nel parcheggio del Pala Expo Mar e pensavo, esatto, che domani fosse uguale. Mi chiedevo che sport si gioca al Palafavera o Palafavera, tra l'altro domani scopriremo anche dove va l'accento. Siamo invece alle pendici del Monte Pelmo e Civetta. Insomma, un posto bellissimo, domani la tappa arriva nelle Dolomiti di Belluno, quindi siamo gasati, no? Sì, abbastanza, però io ho bisogno di sapere, come sempre, un nome o più nomi, non troppi. Domani, secondo me, i big, siccome è un trittico di tappe molto esigenti, magari lasceranno andare la fuga. E secondo me la Jumbo-Visma non si lascerà scappare questa occasione di andare in fuga, questa volta vincerà Sam Omen. Mi sorprende molto e non mi immagino. Nomen omen. Sì, ma io non mi immagino proprio uno scenario in cui la Jumbo-Visma mandi in fuga Omen in una tappa del genere, con Roglic che deve certamente provare qualcosina. Comunque, tutto può essere. Invece, altri nomi? Non mi sono preparato, assolutamente. Okay. Ho visto adesso il percorso di tappa grazie all'eccellente presentazione di Michele Pelacci. Quando io non mi preparo, dico Einar Rubio. Che tra l'altro non è nemmeno un nome impossibile per domani. Io l'ho già detto forse in una parte precedente di questa puntata, per me domani è la giornata della vittoria di tappa di Geraint Thomas. Gerasimo Tommaso, bellissimo nome, due nomi anzi, sia Gerasimo che Tommaso. Un terzo nome bellissimo è quello di Stefano, che non è solo il professore dell'Istituto Natta di Rivoli, ma è anche il nostro amico Stefano, che ci ha preparato una cornucopia, ce l'ha già consegnata nel nostro albergo di Preganziol. Che meraviglia. Cioè, noi adesso finiamo di stare, chiudiamo il baule, andiamo a cena e poi ci aspettano delle cose che non ho capito, delle tipiche osterie di Treviso, tre con il prosciutto e tre con l'acciuga, oltre a qualcosa da berci assieme. Ma Stefano, ma noi ti facciamo una statua equestre domani nella piazza di Preganziol. E allora vi diamo appuntamento a domani, così ci sarà occasione per riferire di questo omaggio gentilmente offertoci a Preganziol. Prima di salutarvi, anzi dopo i nostri saluti, ci sarà un piccolissimo contributo della giornata di oggi nell'auto dell'assistenza tecnica Shimano, in cui scoprirete come si fa per bere un caffè quando si è in macchina al seguito del giro, che in una delle tappe come quella di oggi è fondamentale. Per te che sei un fan pazzesco per di tutti. Caffè. Oggi, era una giornata in cui il caffè era molto desiderato tra i seguaci del Giro d'Italia. Ci diamo appuntamento a domani, grazie e alla prossima. Ciao. Vabbè, oggi sicuramente fuga. Penso proprio di sì, eh. Che però non arriva al traguardo. No. Dobbiamo fare un pronostico di chi va in fuga. Io dico uno dei Bais o tutti e due, sicuramente. Eh sì. Poi tipo uno della Cofidis che potrebbe essere o Champion. Ormai è imminente l'inizio del trasferimento verso il chilometro zero. Oppure Bidar, per esempio. Non so. Poi mettiamoci anche un Bardiani. Sì. Sicuramente. Quale? Mi serve un nome, tipo Gabburo, per esempio, Marcellusi. Marcellusi, perché Marcellusi ultimamente sta andando, sempre. Tonelli era già ieri in fuga, forse oggi è un po' appesantito. E magari un altro della Corratec ci starebbe. Sicuramente. Tipo Dalla Valle, che è Veneto, si arriva in Veneto. Però è un velocista, quindi magari gli fanno fare la volata. Dov'è la... La Corratec è qua giù, c'è Dalla Valle, Iacchi, Konishev, Quarterman. Konishev. Sì. Potrebbe. Sì. Va bene. E oggi dietro tranquilli, penso. Sì. Tranquilli, ma qui tutti i giorni è sempre full gas. Poi se dovesse piovere ancora di più. Vabbè, tra poco sapremo se abbiamo indovinato o no. Allora, quattro atleti che si sono avvantaggiati, siamo al chilometro 3. 12 secondi il loro vantaggio, in testa i dorsali 25, Lisen dell'Alpecin, poi troviamo il 63 champion della Cofidis, l'88 doppio 8 Sevilla Lopez della Eolo Cometa e il 176 176 Quaterman della Corratec. Dai, 1 su 4, 25. Ci può stare, dai. Arrivando i quattro, noi ci mettiamo dietro di loro, giusto adesso? Sì, adesso ci mettiamo dietro di loro. E penso che ci resteremo per molto tempo. Sì, sì, oggi sì. Se rientra Gabburo ne abbiamo presi 2 su 5, che è un 40%. Non è male, dai. Però non sarà dura, un minuto e mezzo, vediamo. Una delle missioni più importanti in giornate come questa è farsi avere il caffè. Come facciamo ad avere un caffè in corsa? Infatti, vedi, stiamo cercando in tutti i modi di trovare il modo. Però, visto che adesso è tranquillo, abbiamo sganciato la nostra moto in una scoperta a cercare un bar. Cercare un bar lungo il percorso? Lungo il percorso, certo. Che velocemente ci faccia i caffè per tutti. Non è semplice, non è semplice. 1:37. Non puoi fallire la missione, Gabbia. È una delle cose più importanti di oggi, lo sai benissimo. Basta che tu ti fermi in una casa, bussi, ti fai fare una moca di caffè, lo fanno volentieri, ecco. Sono persone gentili. Sulla destra. Ok, e fatti fa un po' più lunghi. Sono ottimi. Grande Gabbia, grande. Missione compiuta. Adesso li dobbiamo ancora però prendere. Adesso li dobbiamo però prendere, eh. Sulla destra. Sulla destra. A che chilometro sei, Gabbia? A me segna 72, ma è di meno sicuramente. Siamo al 69. Ok, ti avverto quando siete vicini. Mappa 1 minuto e 38 secondi di vantaggio. The breakaway is at 1 minute 30 seconds up the road. 138 avance de l'échappée de Topinbop. Fantastico. Grazie, no. Grande! Buono! Grazie! E allora, in località, non so dove ci troviamo, abbiamo ricevuto il caffè. Ora bisogna sentire come sono questi caffè, sicuramente. Zucchero? No. No? Una giratina o così come sono? No. Un Nicola, perché li abbiamo superati adesso i fuggitivi? L'abbiamo superati perché il distacco si sta riducendo, quindi è sotto il minuto e mezzo, e quindi noi andiamo avanti, rimane l'altra macchina. Le ammiraglie delle squadre si fermano, quindi rimane l'altra nostra macchina fino ai 30 secondi e poi viene via anche lei. Ma tu cominci a sentirla un po' la presenza, l'odore del mare? Sì, si sente proprio un'altra aria.